Dai e vai. Non è solo calcio. Di Sergio Ferrentino e Luca Gattuso. È solo un gioco, Paul. Non mi dire così! Per favore, è la cosa peggiore, la più stupida che uno potrebbe dire. Perché mi sembra evidente che non sia soltanto un gioco. Sì, insomma, se lo fosse, pensi forse che me ne fregherebbe così tanto? Proviamo anche noi a danzare come sta danzando questo Torino in questa serata, anche un po' fredda, diciamo. Sì, umida, fredda, umida, sì. Umida. Un po' fredda anche. Anche fredda. Io ho sentito, no? Secondo me siamo intorno ai 2 gradi, non di più. No, così poco. Secondo me di più, sì, anche 4-5. Ma figurati, sai che cos'è? La temperatura del frigorifero, 4 gradi. 4 gradi, ma non lo so, secondo me fa freddo questa sera, sarà che mi sto di nuovo malando, però intanto abbiamo questo gioco ballerino dell'Inter che non produce granché in questa fase. Entrare palla dentro, cambio. No, è un'altra Inter però, Maurizio. Ecco, è un'altra Inter, ecco. Se perché? Vuole... perché l'Inter sta perdendo 2-1 e noi a questo punto abbiamo dato un appuntamento a un nostro ascoltatore, anzi no, non era un nostro ascoltatore, ma so che diventerà un nostro ascoltatore, e stiamo parlando di Mirko del Toro Club Ancona dalla Bolgia di San Siro. Dalla Bolgia di San Siro. Ah, non è Ancona, ciao Mirko. Ciao, io non vi sento poco perché sono in mezzo alla moto qua, eh. No, ma si sente benissimo la tua voce invece. Trionfo mi pare in questo caso. Io in questo caso non sento niente quello che dice, però siamo in trance agonistico qua. Sono già in trance agonistico. Sì, e siamo forti. Senti, purtroppo qua si sente solo i cori, si sente poco. Ma quanti siete voi del Torino adesso all'interno della Bolgia di San Siro? Secondo me è più di 1.500 sicuro qua. Quindi però... tanti. 1.500 circa. Ah, ho capito, vabbè, insomma. Dia lo Juventino lì, che gli facciamo un piacere, no? Sì, assolutamente, finalmente fate qualcosa di buono. Insomma, comunque trionfo mi pare per il momento, no? Un bel 2-1, riuscite a portare a casa? Stiamo giocando benissimo, siamo contentissimi. Il Meggiorini che non t'aspettavi. Meggiorini, salto subito a sto punto. Santo subito. Meggiorini. Ecco, senti Mirko, ti faccio soltanto un'ultima domanda, poi ti lasciamo dalla tua bolgia. Voglio soltanto sapere da te, c'è un giocatore che tu non vorresti, siccome sta finendo il mercato, c'è un giocatore che tu non vorresti più all'interno della tua squadra? No, no, perché ci sono, vanno tutti bene. Ma non ce n'è uno che non vorresti più veder giocare? No, assolutamente no. Ah. Non c'è nessun giocatore che non voglio sia nel Toro. Ah, va bene. Il Toro è ben accetto. Va bene. Ciao Mirko, ciao. Ed è tornato ovviamente a fare di nuovo il tifo, come si suol dire. Esatto, sentivi purtroppo... sottofondo. Forza ragazzi, Sì, lo dicevano a loro, però sì, secondo me questo è il vero problema in questo caso. Buono il disimpegno della Toro, Gazzi. Beh, diciamolo però, che Torino che non ti aspetti, come sì, si suol dire. Infatti il Meggiorini, a parte soprattutto, Meggiorini soprattutto che... il Meggiorini non ti aspetti, un giocatore, no, che allora, diciamo come la storia, no, la è storia che... è che Meggiorini l'ultima volta che ha segnato, sì, un gol era alla esatto, parrocchia dentro l'oratorio, e Luca Gattuso ha detto ma no, ma figure, Meggiorini non segna mai tanto, no? Esatto, ecco, quindi due gol, quindi siamo messi lì. Ricordiamo 2-1 per il Torino, doppietta di Meggiorini dopo che Chivo aveva fatto una stupenda punizione che era salita sopra la barriera, se n'è infilata nel 7 della porta di Gillet. Quindi... Ci sono novità per quanto riguarda invece la giornata di oggi, perché abbiamo dato tutti i risultati, sì. Abbiamo dato la classifica, sì. Abbiamo dato per quelli del fantacalcio invece. Gli assist non li abbiamo dati. Ti tengo di sottofondo un po' la partita, e tu invece, esatto, mi vai sopra dando tutti gli assist di oggi per, esatto, quelli del fantacalcio. Esatto. Cagliari-Palermo è finita 1-1. Il gol di Thiago Ribeiro è stato su cross di Avelar. Sì, vorrei vedere chi sì, c'è. Però stringi perché sennò facciamo le già esatto. 23 subito. Poi assist di Dossena sul gol di Ilicic. Per quanto riguarda Catania Fiorentina 2-1, l'assist di Pasqual sul gol di Migliaccio, il gol del Napoli 2-1, il Napoli sul Parma, assist di Zemaili sul gol di Hamsik, mentre l'altro di Sansone è stato l'autorete di Cannavaro, non c'è assist, neanche quello di Cavani. Sampdoria Pescara, va bene, praticamente non ci sono stati assist perché sono state tutte azioni individuali più rigore di Eder, anzi no, l'ultimo gol di Icardi è stato su assist di Eder, un cross dalla destra. Udinese Siena 1-0 sul gol di Muriel, l'assist di Allan, mentre a mezzogiorno e mezzo sul 3-3 di Bologna-Roma gli assist solo della Roma, 2 di Totti e 1 di Pjanic. Basta, abbiamo finito. Ho fatto quelli tutta la carrellata. Quelli di stasera non l'abbiamo detto. Perché sei stato distratto, non stai seguendo quello che sta accadendo in questo momento in campo, perché dentro ancora l'Inter in questo momento in aria, eccolo qua il gol. Pareggio in questo momento. L'Inter. I cambi di Stramaccioni, anche tattici. Cambiasso. Fatto sì che l'Inter in mezzo al campo, un uomo in più, può giostrare meglio, recupera meglio il pallone e arriva sempre sugli esterni con Zanetti che fa una... Zanetti sulla destra ha fatto una discesa, è arrivato proprio sul fondo, l'ha messa in mezzo un po' arretrata, in mezzo all'area, quello che si chiama rigore in movimento. Posso cambiasso dirti, di piatto gol. Posso dirti, la vecchia guardia. Sì, esatto. Allora, Zanetti che passa Cambiasso. Allora, un 39enne proprio... che passa un 35enne. Cambiasso proprio una roba incredibile. Esatto. Cioè, 0-2-2, grande giocata di Zanetti. Fantastica. Vabbè, non lo marcava nessuno Cambiasso, probabilmente lo sognavamo anche noi un gol così. Beh, insomma, però guarda che Zanetti si è fatto un numerillo. Sì, ma non era la prima volta che faceva queste discese. Discese sulla destra, discese ardite come si suol dire. Comunque pareggio, e abbiamo beccato questo pareggio in diretta in questo caso. Ci è andata bene che non eravamo al telefono con Mirko, se no non lo sentivamo più. Mamma mia, adesso Mirko chi lo sente? Cioè, adesso non ci vorrà più sentire perché se no adesso pensa che noi siamo noi che... No, per fortuna non eravamo al telefono. Ricordiamoci che Mirko, che abbiamo sentito nella fase pomeridiana di Dai e Vai attorno poco prima delle 19, per superstizione non aveva voluto fare il pronostico. Giusto. Per figurati se fosse stato in collegamento con noi. Siamo al 23esimo. Come 2-2. Si direbbe normalmente, no? È una partita tutta da seguire, sì, ormai. Sì, sì. Emozioni. Adesso dobbiamo dire che le squadre si sono allungate, sono saltati gli schemi e adesso il Torino guarda qua, sta per fare il terzo qua. Niente. Sempre Zanetti sulla destra, ecco che entra in area in questo momento, si accentra questa volta, tira di sinistro e becca in pieno un difensore del Torino. Vabbè, mentre intanto la partita sta andando avanti serenamente, cercando di portare a casa un risultato utile per l'Inter di Stramaccioni, ecco che noi dobbiamo andare avanti con i nostri servizi, nel senso che vorremmo raccontarvi anche un'altra cosa, cioè che in questi giorni. In questi giorni sono già uscite fuori gli schizzi, le bozze, le anticipazioni. No, proprio i disegni, sì. Diciamocelo chiaramente, no? Delle nuove maglie dell'Inter e della Juventus, esatto. In questo caso. E quindi perché? Perché comunque all'interno di quella situazione c'è, come dire, un mercato non indifferente, c'è un mercato particolare, cioè si vende ed è il marketing che imperversa, no? Pensando ad esempio squadre molto importanti come appunto il Manchester, come il Real Madrid, no? Esatto. Ecco, si parlava persino del Real Madrid che riusciva a vendere più maglie in Cina, no? Sì. Rispetto a quelle che vendeva in Spagna, questo per capire, rispetto a alcuni giocatori. Sono già uscite fuori queste bozzetti, questi schizzi di queste maglie, però in realtà l'altra cosa più interessante è che c'è già un libro sulla storia delle maglie. Esatto. E in questo momento si sta concentrando una serie di notizie che noi vorremmo darvi, per esempio le maglie più vendute della Serie A. Sì, no? I nomi sulle maglie anche. Sì, i nomi sulle maglie, cioè le maglie più vendute in questo caso, no? Ecco, per esempio, non so, dimmi Catania. Il Catania, le maglie più vendute sono quelle di Berghesso, di Gomez e di Lodi. Adesso io ti copro, sì. Così non puoi vederlo, tu mi devi dare però così, no? Delle cose. Per esempio Genoa. Beh, Genoa sicuramente il Rossi, sicuramente, perché è facile. Il grande cuore Rossi e poi delle due punte principali, quindi immagino Boriello e Immobile. Esatto, Boriello è quello più venduto in questo momento qua. Però allora a questo punto Inter. Beh, l'Inter ci sarà Zanetti, poi ci sarà Cassano e Milito, no? Vabbè, scusa, ma le stai guardando anche tu, scusa. No, non le sto guardando. Le stai guardando, di la verità. Vabbè, ci ho preso? No, ci hai preso, però adesso questo non voglio dirti niente. Lazio? Lazio. Dimmi uno. Due. Beh, Klose sicuramente. Vabbè, Klose Hernanes, è e poi è il terzo, sai che non lo so della Lazio. Ne parliamo dopo il traffico. Traffico. Dai e vai. Strade in diretta. Buonasera, 22:15 sulla 24 Roma-L'Aquila-Teramo, si incontrano code per un incidente tra la barriera di Roma Est e l'innesto con la 1 verso Teramo. La 14 Adriatica per lavori è chiusa fino alle 6 di domani mattina nel tratto compreso tra Cattolica e Pesaro verso Ancona. Sul tratto appenninico dell'Autosole per lavori urgenti c'è un chilometro di coda tra Pian del Voglio e Rioveggio in direzione di Bologna. Traffico scorrevole sul resto dei percorsi, attenzione però alla nebbia che riduce la visibilità a 80 metri sulla 13 Bologna-Padova tra Altedo e Occhiobello e tra Ferrara Sud e l'innesto con la statale 16 Adriatica. C'è nebbia in banchi sulla 21 Piacenza-Brescia tra Manerbio e Brescia Centro. È tutto, il prossimo aggiornamento tra mezz'ora. Dai e vai, non è solo calcio. Waiting for the end of time, was waiting for the biggest wave of my life, but when I opened my eyes it was a quiet morning. No bell was ringing, but the sun was ready to shine. Ooh, among men felt a change in his heart, in his soul. Should I light the fire of that testimony? Should I light the fire? Palacio vicinissimo al gol. Esatto, c'è stato un passaggio di Cassano, è arrivato al limite dell'area di porta, Gile è uscito, è riuscito a parare con le sue belle manone, poi Palacio l'ha ritoccata, non credo che abbiano dato il calcio d'angolo all'Inter. Gran bella parata, esatto, tra l'altro, sì, dice. Sì. Però tra l'altro è andato vicino anche il Torino al gol, anche poco prima, sì, pochi secondi prima. Sfiorato un palo, adesso corner Cassano direttamente lì. Beh, torniamo ad esempio, allora, lì, parliamo della Lazio, abbiamo parlato, no? Chi è che qual è il giocatore che vende più maglie, insomma, qual è quello più utile? Beh, abbiamo detto sicuramente Klose e Hernanes, che sono i due, però la terza sarei molto, cioè non saprei chi potrebbe essere la terza maglia della Lazio. Guarda, è clamoroso perché ci abbiamo un Candreva piazzato lì. Beh sì, perché a inizio stagione ha iniziato a segnare dei gol in sequenza, quindi probabilmente ha acquisito a livello di immagine nei confronti dei tifosi. Allora, quindi dammi invece delle certezze per quelli che vendono più magliette per quanto riguarda la Sampdoria. Gastaldello, il capitano Maxi Lopez, facile. Il puntero e poi Obiang, Icardi. Beh, Icardi da oggi direi, oppure Icardi da quando ha segnato la doppietta alla Juventus. Non hanno ancora stampate le magliette di Icardi, quindi smettila dai. Beh, lo fai col pennarello, cioè. Col pennarello bianco. Si cancelli Pozzi. Esatto, okay. Come Pozzi. Cioè, abbiamo una delle maglie più vendute della Sampdoria di un giocatore del Siena, mi stai dicendo? Esatto, Pozzi è una delle maglie più vendute. E allora un'altra, anche il Chievo non è male, vabbè, Paloschi alla grande, Pellissier non si tocca, va bene, le due dire. Punte, un classico. Maglia più venduta a questo punto è Sorrentino. Bravo. Cioè il portiere del Palermo è la maglia più venduta del Chievo. Esatto, vabbè. Perché adesso appunto no, è stato cacciato via. Esce Cassano. Allora 800 24 00 24, 800 24 00 24, voi che non state seguendo, state seguendo soltanto di sottofondo Inter e Torino, ma che avete delle maglie a casa casa, le maglie vere, quelle preziose, quelle che voglio, ogni volta che arrivano gli amici le fate vedere, gli altri dicono guarda che l'abbiamo già visto, è dal 60 che ce la fai vedere, no? Quindi cioè, Mazzola, cioè, capito? No, cioè, ma che maglie avete? Quella è quella maglia, intanto ci sono due livelli di classifica, la maglia più preziosa in assoluto e poi la maglia a quale voi siete legati in qualche modo, perché l'avete rubata a qualcuno, cioè. C'è la maglia ricordo, perché c'è la maglia preziosa, la maglia ricordo, legata a un ricordo, a un evento, a una situazione, poi bisogna vedere perché... Ma anche un giocatore, cioè, anche un giocatore, cioè Del Piero, cioè la maglia di Del Piero, chi più chi meno, no, cioè è incredibile, cioè, questo passaggio qua, insomma. Ma stai dicendo la maglia originale che sei riuscita, sì, ad avere direttamente da lui, oppure... No, non lo so, comunque la maglia è una maglia, cioè in qualche modo avrete una maglia da qualche punto di vista, insomma. 800 24 00 24, e intanto attenzione perché ci abbiamo anche una, mi pare, una punizione, sì, punizione dalla destra, come al solito Cerci, siamo a 30 metri circa dalla porta dell'Inter, si mette col suo classico sinistro Cerci, quindi il tiro sarà a rientrare sul secondo palo, è entrato Bianchi nel frattempo nel Torino, ecco la punizione di Cerci, batte giustamente sul secondo palo ma è troppo lunga la palla, esce sul fondo, la riprende Handanovic, va a ribattere la rimessa dal fondo. Ecco, vabbè, sempre 2-2. Volevo soltanto dirti questa cosa, parliamo anche di quel libro lì che ci abbiamo lì sul tavolo in questo caso, perché è la cosa che ci interessa anche di più, ed è un libro che noi vi segnaliamo come libro perché è veramente interessante per quelli che si interessano ovviamente delle maglie, perché sì, sennò, c'è una specie di psicosi fra i tifosi calcistici, nel senso che molti sono appassionati di maglie, tant'è vero che appunto c'è il merchandising, e c'è un Giorgio Welter che ha scritto un libro, si intitola Le maglie dei campioni, storie, miti e aneddoti sulle divise di 60 squadre leggendarie, 60 squadre, non tutte, quindi guarda caso apro col Genoa, non tutte, quindi, rispetto a che cosa? No, non tutte leggendarie, perché guarda caso apro col Genoa, quindi, no, adesso da che vergogna, no, guarda caso aperto sul Genoa, comunque ci sono 60 maglie di calcio, si va da squadre brasiliane, squadre italiane, la CSKA di Mosca, Dinamo Kiev, Dinamo Zagabria, Feyenoord, Fiorentina, Flamengo, Göteborg, Juventus, Manchester United, ecco, sono decine, appunto una sessantina, le maglie che vengono descritte nella loro storia, nella loro evoluzione, soprattutto come sono nate queste maglie. Attenzione, con... ancora Torino. Attacca ancora Torino, ma c'è un bellissimo fuorigioco, si alza la bandierina mentre... A proposito di fuorigioco, fuori stadio chi c'è? Fuori stadio? Beh, Luca Cancellara, pronto, immagino. Luca? Eccomi qui. Come va? Come va la partita? Perché io la sto sentendo soltanto da fuori. In che senso? No, vuoi sapere da noi qual è il risultato? La sto seguendo attraverso i cori, gli ululati, le acclamazioni del pubblico. Cioè, quindi non sai niente tu? Come? Non sai nulla, quindi? Assolutamente no. E quanti siete lì fuori a non sapere? Come? Quanti siete lì fuori a non sapere? Siamo io ed esattamente 5 addetti alle salsicce alla piastra. Ecco. Che fanno amabilmente, no, non guardatevi così male, siamo in collegamento radiofonico. Voi sapete qual è anche dire la radio, partita? Non ti cioè, ti puoi anche dire la radio, così facciamo più in fretta. 2-2 vi dicono. Esatto, vedi che stanno seguendo. Claudio, qual è il piatto che ha cucinato maggiormente questo posticipo questa domenica sera? Ma non te lo posso dire. Come non te lo può dire? Ti hai invitato a Mirone 18 anni o? Non mangio cazzo nessuno, sono tutti morti di fame. Non mangia nessuno, mi fanno capire insomma che molti sono portati la schiscetta da casa, come si dice qui a Milano. Una grande inchiesta di idee, fai. Tra l'altro lo sento un lord che sta viaggiando e sta vendendo porchetta, un lord. 30 euro, fa sparire 4 euro sulla mente. Hai capito. Ah, ho capito. Cosa detto? Io non mi sento molto bene, essendo qui sotto allo stadio, mi dicono che la crisi dovuta del basso consumo del cibo è dovuta al prezzo troppo alto dei biglietti. Sì. Se abbassassero poi i biglietti la gente sarebbe più disponibile a mangiarsi. Vabbè. Qui la salsiccia fuori dallo stadio. Comunque non sta uscendo nessuno per il momento. Assolutamente, da quanto mi giunge dall'interno direi che nessuno ha l'intenzione di uscire. No, perché di solito ci sono quelli che scappano un po' prima per evitare il traffico, per arrivare prima a casa, quindi appena oggi, tu riesci... Oggi invece è deserto. Appena tu avvisti uno delle persone che sono andate a seguire la partita che stanno uscendo, avvisaci immediatamente che gli chiediamo come mai si perde l'ultimo quarto d'ora o 10 minuti di partita. No, ma che senso? Cioè, no, nel senso, sei sicuro che uscirà qualcuno? Secondo me sì. c'è sempre quello che esce, cioè, quello che ha fretta 5 minuti prima perché dice no, perché poi trovo traffico e non arrivo a casa, allora non andare alla partita. Senti, cioè, che squadra è Hello Kitty? Come Hello Kitty? No, perché ci ha mandato un sms al 349-238-6666. Ma è Ele. Ele, quella di oggi pomeriggio. Ah, quella che abbiamo tediato sì, oggi pomeriggio. Esatto. Sì, vabbè, gli ascoltatori non lo sanno che no, esiste no, una certa no, Ele. Lo dicevo. Però la maglia di Hello Kitty, volevo capire esatto. Che altro cos'era. Hello Kitty è un personaggio amato dai bambini, tendente a rosa come colore. Lo volevo chiedere a uno giovane veramente. Luca Cancellara, sei giovane tu? Hello Kitty, sei... Dipende dai punti di vista, se vuoi informazioni su Hello Kitty credo non abbastanza. No, niente, vabbè, ho capito, vabbè. Senti, dai, ci sentiamo poi quando hai qualcuno intorno a te, non soltanto quel lord che ha detto no, sono tutti morti di fame questi. Spendono... Se mangiano tutto quanto si porta da casa. No, ma... spendono 30 euro per il biglietto e non spendono 4 euro per il panino. E si porta la schiscetta da casa, esatto. Morti di fame. E poi fa freddo. Vabbè, ecco, vabbè. Che ridi, Luca? 36esimo minuto, 2-2 dentro lo stadio. Fa freddo lì fuori? Dovete capirmi, cioè qui sono da solo soltanto con questi personaggi. Sei lì da solo con il Lord, no? In questo caso, vabbè, dai, ciao, grazie, ci sentiamo tra poco. Tra dopo allora. Sì, ciao, ciao, ciao. Vabbè, allora. Nel frattempo esce Cerci nel Torino, fa una faccia un po' sconsolata, alza gli occhi, il direttore sportivo gli dà una pacca sulla comunque, spalla. Comunque ragazzi, cioè 2-2 Torino, Inter, il Torino a Inter, no, cosa c'è? Un po' di polemica nei confronti di Ventura, guarda torna indietro dall'allenatore. Gli ha detto qualcosa, ma perché mi hai tolto coach, stavo giocando con il mister, stavo giocando con il... no, coach è più basket, sì. Mister, perché stavo giocando così bene, invece no. 37esimo minuto, finita la partita di Cerci. Mister gli ha detto, ah sì, così giocavi bene, chissà quando giochi male poi, no. No, infatti non giocava malissimo da questo punto di vista. Fiorentina, le maglie più vendute della Fiorentina. Allora, Jovetic. Per quelli che ce l'avevano su con degli Rossi mi verrebbe da dire gli Aic. Vabbè, no. E poi Pilani? Borja Valero? Borja Valero. Ma è arrivato ieri Borja Valero. Sì, pensa a Roncaglia che è terzo. Roncaglia? Cioè quello... Sì, Roncaglia. Roncaglia, ma chi è? Un attore di soap opera? Roncaglia, hai capito? Cioè una cosa veramente incredibile. Vabbè, Parma è facile. Beh, Parma a Mauri, Valdés e chi? A Belfodil. Ma va. No? A Belfodil anche lì erano stampate ma, oggi. Scusa, ma vuoi mettere avere una maglia da gioco di una squadra di calcio col nome di un detersivo sulle spalle? Belfodil. Sì, o di un farmaco. Sì. No, è bello. Un insetticida. Anche sì, esatto. Cioè Belfodil è un insetticida. Cioè, sì, può essere anche un insetticida, effettivamente. Ecco, vabbè. Comunque, allora, Belfodil, no, cioè, no, Belfodil non c'è, no, perché c'è Amauri, Lucarelli e Paletta. Paletta. Cioè io un po' mi vergognerei andare in giro con la maglietta dietro scritto Paletta. Paletta, però ecco, queste sono le maglie più vendute. Adesso poi ci saranno anche le altre, ovviamente Cavani, Amsic e Insigne. Grande vendita di magliette di Insigne, perché c'è speranza nella vendita di quelle magliette, perché si spera. Tra l'altro Insigne gioca pochissimo. Sì, infatti. Quindi è proprio sulla fiducia hanno comprato. Napoli gioca soltanto con una punta, con Amsic dietro, quindi Insigne entra a partita in corso e raramente viene messo in campo come titolare, però c'era grande speranza nei suoi confronti, quindi molto probabilmente a Napoli le maglie sono state vendute. Sempre 38esimo minuto, sempre 2-2 per quanto riguarda Torino-Inter, più Torino che Inter negli ultimi minuti. Guardalo, adesso è nudo, come un verme che non diventerà farfalla. Sentilo, il suo linguaggio crudo, le trame oscure, tutta la merda viene a galla. Palla, sei una palla, tu eri innamorata, dolcissima fanciulla. Di quel fascio di muscoli in cerca di un neurone, gonfiato ed addestrato per la calcia di un pallone. Allora balla per me, Melina, balla, che balla dopo balla, lui ti ha rubato il cuore. Balla per me, Melina, balla, piangi sulla mia spalla, dai sfoga il tuo dolore. Dai, ancora questo corner dell'Inter. Dai, proprio per vedere se magari, cioè, no? Cioè, dai, sblocca sì. Un po' la serata, diamo delle certezze. Ranocchia in area, cross, nulla di fatto. No, ha preso Ranocchia. Sì, l'ha presa Ranocchia, c'era Glick che lo spingeva. L'ha passata questo. Direttamente al portiere, nulla di fatto. Portiere che temporeggia, ovviamente, perché a questo punto non c'è niente da fare. Siamo al 39esimo tra 5 secondi. Noi invece a questo punto possiamo serenamente dare la linea alla pubblicità. Dai vai Radio 24. Dai e vai. Con il nuovo concorso corso premi nelle stazioni di servizio Costantin? È sempre uno spettacolo. Proprio ieri arriva il Schutzmacher e trova un bambino vicino al pompone. Mi piacerebbe tanto vincere la Mercedes. Te lo faccio vedere io come si vince la Mercedes. È tornato con lo yacht sul carrellino per fare il fino. Si è portato via un camion di cartoline che per imbucarle tutte ci vuole un anno bisestile. Vieni nelle stazioni di servizio Costantin. Troverai prezzi bassi con il miglior servizio e un concorso da sogno. Regolamento completo su costantin.com. Viva Costantin! Dai e vai. Non è solo calcio. Allora, se vogliamo far passare poi, come si dice, l'asso per la figura, è un altro. Guardalo, adesso è nudo, come un verme che non diventerà farfalla. Sentilo, suo linguaggio crudo, le trame oscure, tutta la merda viene a galla. Spalla, per una palla, tu t'eri innamorata, dolcissima fanciulla. Di quel fascio di muscoli in cerca di un neurone, compiato ed addestrato per la calcia ad un pallone. Allora balla, per me bellina balla, che balla dopo balla, lui ti ha rubato il cuore. Balla per me bellina balla, piangi sulla mia spalla, dai solo al tuo dolore. Balla, a lui che ti ha tradito per un calcio di rigore. Dalla merdellina dalla, che si è cornuto l'arbitro e pure il giocatore. Guardalo, tuo principe azzurro, mentre si scioglie al sole come il burro. Ripensa adesso alle sue pose plastiche, l'idolo della folla che salta e mostra svastiche. Guardalo adesso, che si è rotto il guscio, il tuo pulcino muscoloso col pisello moscio. Rotola sai, rotola la palla, il modulo a tre punte, la fase difensiva. Ripartenze, crollano le apparenze, andiamo dita al succo, fuori il trucco. Qualcuno sta barando, è il grande vecchio che soffia nel fischietto con il telecomando. Allora balla per me bellina balla, che balla dopo balla, lui ti ha rubato il cuore. Balla per me bellina balla, piangi sulla mia spalla, dai sfogo al tuo dolore. Balla per me bellina balla, a lui che ti ha tradito per un calcio di rigore. Balla per me bellina balla, che si è cornuto l'arbitro e pure il giocatore. Balla per bellina balla, innamorata di quel biondo calciatore. Balla, bellina balla, tutta l'estate sulla barca di Briatore. Balla, bellina balla, intercettata come un volgare spacciatore. Balla, bellina balla, falla pagare a chi ti ha spezzato il cuore. Balla, bellina balla, che balla dopo balla, lui ti ha rubato il cuore. Balla, bellina balla, piangi sulla mia spalla, dai sfoga il tuo dolore. Balla, bellina balla, a lui che ti ha tradito per un calcio di rigore. Dalla merdellina dalla, che si è cornuto l'arbitro e pure il giocatore. Balla per merdellina dalla, che balla dopo balla, lui ti ha rubato il cuore. Dalla merdellina dalla, piangi sulla mia spalla, dai sfogo al tuo dolore. Balla per merdellina dalla, a lui che ti ha tradito per un calcio di rigore. Dalla merdellina dalla, che si è cornuto l'arbitro e pure il giocatore. Balla per merdellina dalla. E si è visto il recupero di Gargano, lì poteva crearsi. Esatto, si è visto il recupero di Gargano. Stiamo sempre parlando di Inter Torino, che sta per andare a chiudersi, diciamo 5 minuti, con anche i tempi di recupero. Per il momento 2-2, diamo anche chi ha segnato, te li ricordi? Ha segnato la doppietta Meggiorini per quanto riguarda il Torino, mentre Chivu su punizione per l'Inter, e poi il pareggio di Cambiasso. Era passato in vantaggio l'Inter, poi due gol del Torino, e infine il pareggio di Cambiasso. Mancano 2 minuti più tutto il recupero. Noi intanto ci appoggiamo anche alla Coppa Africa, per dirvi che noi tifiamo ormai per questa, per Capoverde e Sudafrica, e Capoverde sono passate ai quarti. Non so se questo ci può entusiasmare o vi entusiasma oppure vi sta facendo fare urlare di gioia, però di fatto Capoverde è riuscito a passare. Pensate, Capoverde ha 400.000 abitanti, un paesino, un paesone, insomma, Verona, c'è Padova, c'è a Cuneo, forse Cuneo no, Cuneo è un po' meno. Genova, quanti sono? No, Genova credo che sia sopra il mezzo milione. Ah sì, così tanti? Però ecco, diciamo che Coppa d'Africa, Sudafrica, Capoverde, stiamo parlando quindi di Africa, però a questo punto andiamo a parlarne veramente di Africa, esatto, di cose serie. Ci trasferiamo in Africa anche perché c'è un progetto che è stato iniziato da un ciclista professionista che si chiama Andrea Tonti, e questo ciclista professionista ha pensato bene, in accordo con le autorità della Nigeria, di lanciare questo questo progetto legato sempre al ciclismo per far migliorare le potenzialità, le qualità dei ciclisti della Nigeria, nigeriani, in modo tale che possano aspirare nell'eventualità che le cose andassero tutte bene a partecipare alle Olimpiadi. No, ciao Luca, stava andando avanti perché era caduta la linea con Andrea Tonti, giusto? Andrea, ci sei questa volta? Ci sei? Sì, eccomi. Ah, come stai? Tutto bene? Tutto bene, grazie. Ecco, sì. Tu sei qui, cioè, noi abbiamo segnalato questo dirigente sportivo, giusto? Sì, ecco. Esatto, sono attualmente team manager di una squadra professionistica. Di una squadra, però possiamo dire anche quale? Certo, il Nippo. Il? La squadra italo-giapponese. Ah, Nippo. Allora, senti. Dopo 12 anni di professionismo pedalata, mi sono andato alla dirigenza. Esatto, ricordiamo che tu eri anche nella nazionale in cui ha vinto Bettini nel 2007 ai mondiali e poi Ballan nel 2008 a Varese, giusto? Giustissimo. Giustissimo. Senti, ma sei già in Nigeria? No. No, l'aereo il 1° febbraio. Ah no, perché sente malissimo, quindi più o meno pensavo fossi già da quelle parti. Allora ritorniamo a noi, perché è interessante quello che stai cercando di fare. Tra l'altro stiamo in tema con Coppa d'Africa, però siccome la nostra trasmissione dice che non è solo calcio, dai e vai, quindi parliamo di ciclismo. E che cosa, raccontaci bene questo progetto, con la Nigeria tra l'altro. Sì, esatto, noi un progetto nato ormai più di 2 anni fa con la collaborazione della Federazione Ciclistica Nigeriana, che era abbastanza fatiscente, perché quando sono sceso giù la prima volta ho trovato un movimento che praticamente era da costruire, appoggiato da personalità comunque nigeriane, e precisamente a Portacol, questa città al sud della Nigeria, una città dove estraggono comunque sia gran parte del petrolio che viene poi distribuito in tutto il mondo, che combatte attualmente anche con i loro problemi sociali. Grazie comunque a questi personaggi appassionati di civismo si è cercato di costruire un futuro diverso per i giovani, per questa popolazione che il civismo sta trovando, grazie anche e soprattutto a personalità del luogo, questo nuovo sbocco. Ecco, senti, allora, come dirigente hai dato la risposta giusta. Adesso vediamo di parlare tra di noi, perché dare sviluppo a un paese come la Nigeria e soprattutto delle prospettive ai nigeriani, bisogna capire di che cosa vogliamo riempire queste frasi. Guarda, cioè, succede? Molto... Cosa succede materialmente? Praticamente ho trovato un gruppo di appassionati molto operativi e molto concreti. Quello che si è stato promesso 2 anni fa è stato realizzato, ovvero abbiamo ad oggi già potuto iniziare la collaborazione con la Federazione Nigeriana, portando nel luglio 2012 i primi 2 ragazzi nigeriani da me selezionati, quindi un ragazzo e una ragazza di 18 anni, li ho tenuti 1 mese qua in Italia, nelle mie zone, dintorni di Ancona, quindi nelle Marche, dove un training camp personalizzato. Sai cosa mi viene in mente? Hai presente quel film dove tentavano di portare 4 caraibici alle Olimpiadi per il Bob? Esatto. Più o meno siamo su quel piano lì, siamo, no? Giusto? Siamo su quel piano lì. Attualmente c'è un progetto chiamato appunto, mi hai tirato una grande volata, come ingegnere civilistico, Rio 2016. L'obiettivo posto poi in Nigeria, in federazione, è quello di riuscire a portare, perché prima c'è chiaramente da qualificarsi, un atleta nigeriano alle Olimpiadi di Rio de Janeiro. Ecco, come si fa a qualificarsi? Cioè, hai detto, devono qualificarsi, cioè cosa devono fare? Esatto, per qualificarsi c'è da intraprendere prima un campionato africano. Scusa, intanto, fermati, ma c'è ancora il calcio che incombe, però gran tiro di Meggiorini. Di Meggiorini, ancora una volta, nei confronti, però parato da Andanovic, quindi nulla di fatto, 2-2, scusa, ti abbiamo interrotto inutilmente, come spesso succede nel mondo del calcio. No, ho una famiglia di interisti, quindi... Ah, una famiglia di interisti? Quindi sta soffrendo adesso. Ah, quindi... un genitore juventino che c'era io, la moglie e figli interisti. Vabbè. E tu invece sei tifoso? Juventino. Juventino, oh bene. Fratello bianconero, volevo dirti appunto su questo piano, parliamone di questo aspetto, no, non dell'Inter, non della Juve, ma bensì parliamo proprio in questo momento, guardate, proprio I ci dicono... sono dei tifosi dell'Inter, gli applausi dei tifosi del Torino, il Torino... Finita, 2-2, diamo anche il risultato finale a questo punto. Beh, vediamo un attimo la questione, allora il progetto è andare vai in Nigeria, la domanda anche che sorge spontanea è perché la Nigeria, cioè l'Africa è così grande, perché hai scelto la Nigeria? Ma a dire la verità non ho scelto, sono stato scelto, è stata un po' all'inverno questa situazione. Tutto è nato da Gian Domenico Massari, un italiano che da 23 anni vive in Nigeria, appassionato di ciclismo, ancora italiano come me. Uh-huh. E quindi ti ha chiamato, quindi tra amici, insomma. Tramite amici comuni aveva un progetto di nuovamente, questo di fare il tour della Nigeria. Quindi una gara a tappe in Nigeria, mi ha chiesto una consulenza, una collaborazione, un aiuto, vieni giù, vieni a vedere, ho bisogno di te, mi devi dare una mano. Mi sono un po' informato sulla Nigeria, insomma non era proprio così semplice come paese. No, assolutamente. Un po' comunque da questo paese problematico, mi viene da dire. Ma ci sono delle potenzialità dal punto di vista, diciamo, degli atleti, di questi atleti ad esempio che hai portato in Italia a luglio? Io li ho portati a luglio, ho portato due ragazzi, come dicevo prima, 18 anni, ragazzo e ragazza, li ho portati a Centro Mattei, uno dei centri leader in Italia per testare gli atleti sotto tutti i punti di vista, dal ciclismo al calcio, altri, e hanno fatto tutte le prove da sforzo con consigli di ossigeno, hanno rivelato comunque sia delle buone potenzialità, considerando che sono atleti attualmente con pochissimo allenamento di fondo, quindi non hanno i metodi di allenamento che utilizziamo noi in Europa, non adesso il mondo, laggiù l'andare in bicicletta. Niente, bisogna farli venire in Italia e farli allenarli in Italia, questo è il concetto di base. Il concetto è questo, stiamo cercando appunto di trovare fondi con la federazione nigeriana, con diverse compagnie importanti, multinazionali che operano in territorio nigeriano per finanziare, comunque sia appoggiare questo progetto già nato e già concretizzato con la prima esperienza di questi due ragazzi del 2012. Vabbè. Io arrivato giù adesso perché abbiamo un altro evento, domenica 3 febbraio, una gara chiamata Gara del City Festival proprio a Port Harcourt, riscenderò ad aprile, sempre passo dopo passo, concretizzando e scegliendo, valutando, formando una prima squadra nazionale da esportare poi nelle varie nazioni. Vabbè. Sì, abbiamo capito. Il passaggio, l'altra cosa è, dopo Rio, Tour de France subito? Oppure passando al Giro d'Italia? Ma io sarei contento di passare prima il Giro d'Italia, comunque. Vabbè, facciamo un giro delle Marche, via, dai. Per quanto potrebbe essere lontano, l'Africa è considerato comunque il futuro. Dai, puntiamo il giro delle Marche prima, va, dai, che è meglio. L'abbiamo già fatto nel 2012. Grazie, buona serata e ovviamente auguri. Teniamoci in contatto perché comunque magari poi dopo a Rio fate l'esploit, esatto. No? E noi ci abbiamo già subito il contatto. Grazie, a risentirci. Qua. Grazie Andrea Tonti. Grazie a voi, buona serata. Ciclista professionista che ha in ballo questo progetto con alcuni atleti della Nigeria per riuscire a portarli a Rio 2016. Sì, nel frattempo è finita. Abbiamo detto che è finita, però ufficialmente certifichiamo. C'è tanta bella pubblicità in televisione, quindi vuol dire che Inter e Torino stanno andando negli spogliatoi. Il risultato 2-2, doppietta di Meggiorini per il Torino, mentre per l'Inter ha segnato Chivu e Cambiasso. Posso darti questa notizia che ho letto qua e là, insomma, in questo passaggio? Cioè, che Jordan. Ah, chi? Michael? Eh sì. Ah, che è successo? Festeggia 50 anni. Ah, però. Cioè, Avrei detto 40. 50 anni, allora portati bene. Adesso butta via. Cioè, vorrei avere io il fisico di un cinquantenne come Jordan. Esatto. Jordan, portati bene, no? Ha qualche acciacco qua e là, però dice, come vado a festeggiare i 50 anni? La solita festa lì nel privé di una discoteca, sì, ci si sbronza un po', cioè, si balla, quelle cose che si fanno di solito, no? Tutti quelli. Poi, squadre, squadra con cui ha giocato. Tutti che cantano Happy Birthday to you, puoi spegnere le candeline, torna in torta, la panna. Torna in campo. A far cosa? A festeggiare? Non urlare, torna in campo a giocare. Come a giocare? A giocare, cioè torna in campo a pulirlo, non ho capito. No, a festeggiare con la torta, le candeline, gli amici che festeggiano accanto. Esatto. Ah, torna in campo a giocare. Torna in campo a giocare. Senti, Luca, stanno per uscire? Pronto, Cancellara, ci sei? Eccomi, ci sono. Ecco, stanno uscendo? Stanno uscendo, direi che ormai questo 2-2 non ha più nulla da dire, vediamo... È finita, scusa, la partita. No, aspetta. Stai attento che abbiamo soltanto un minuto. Avete ripreso il Torino, eravate sotto di un gol, bene. Adesso è il Torino. Ah, tu sei detto grandissimo, quindi sei soddisfatissimo. Forza Toro, abbiamo beccato subito un torinista che è contento di questo 2-2. Ecco. Ma... vabbè, qua ma era Camus, scusa. Io sono soddisfatto di questo pareggio. Qui lo spieghi tra l'altro. Cioè, è riuscito a beccare. Questa sera? Di merda. Ah, ecco, finalmente l'ho intervista. Ci fosse intervista è stato abbastanza chiaro, non so se avete colto la soddisfazione diciamo che aleggia questa sera su San Siro. Il tono giusto, vediamo insomma. Articolato il giudizio, mi è sembrato, molto, è andato come molto sul tecnico. Come hai visto l'Inter questa sera? Questo 2-2 è un po' salvo contro il Torino? Un po' tanto. E potendo scegliere in questa sessione di mercato chi piacerebbe? Allora, inizia la lista. Come nessuno, l'amore per questa squadra va al di là di tutto. Si sanno quelli che vanno e quelli che vengono, per sapere. Grazie. Ecco, senti Luca. Scusi, Luca. Questo 2-2 con il Torino, come lo vedi? Malissimo, cioè abbiamo giocato veramente male, così non si può andare avanti. Potete scegliere chi caccerebbe in questa sessione di mercato? Vabbè, la scelta mandare via Mudigai, quasi non tutti, però perché poi ricambiasso non si fa un cazzo. Ecco, vabbè. Cambiasso che sono nato la vita. Sì, grande Cambiasso. E vuoi chiamare un colpo di mercato? Quasi volendo. Volendo comprare qualcuno? Ecco, senti Luca. Se comprare qualcuno, bisogna comprare un centrocampista che fa gioco. Non sempre il contesto, abbiamo solo i contesti. Guarim, Gargano, Mundica, solo il contesto. Io adotterei la solita tecnica. Ciao, grazie. È stato bello. Luca, se non vuoi parlare con noi, diccelo. Se ti abbiamo fatto qualcosa, ti abbiamo trattato male nelle altre, oggi pomeriggio altri collegamenti, diccelo. Sei stato un po' duro oggi pomeriggio. Cosa hai detto? No, sei stato duro. Con la cancelliamo Cancellara. Ma guarda che non è male come idea, tra l'altro. Vabbè, traffico. Dai e vai. Legno Edilizia, in Fiera Verona dal 14 al 17 marzo. Vi presenta Strade in diretta. Buonasera dalla redazione di Strade in diretta sulla 24 Roma L'Aquila Teramo. Ci sono code per incidente tra la barriera di Roma Est e l'innesto con l'autosole in direzione di Teramo. Sul tratto appenninico dell'autosole c'è un chilometro di coda circa per lavori urgenti tra Pian del Voglio e Rio Veggio verso Bologna. E per lavori è chiusa la 14 Adriatica nel tratto compreso tra Cattolica e Pesaro verso Ancona fino alle 6 di domani mattina. Attenzione alla nebbia che riduce la visibilità a circa 80 metri sulla 13 Bologna-Padova tra Altedo e Occhiobello e tra Ferrara Sud e l'innesto con la statale 16. Nebbia anche sulla 21 Piacenza-Brescia, Prudenza tra Manerbio e Brescia Centro. Ed è tutto, Strada in diretta, torna tra mezz'ora. Dai e vai, non è solo calcio. Bene. Torniamo a noi il passaggio che è interessante che volevamo appunto fare con Luca Cancellara, che dovrebbe essere ancora lì prima o poi davanti a San Siro a dirci delle cose, possibilmente anche parlare con noi, perché mi dà un po' fastidio questa cosa che non parlava proprio con Ma sai, come... Posso dirti quest'altro aspetto interessante, questo elemento, questo là che ci ha dato il buon Luca, e cioè chi non vorresti più vedere nella tua squadra? Ma sì, perché siamo gli ultimi giorni, no, siamo non mi spiegare tutto il dibattito, dimmi. No. La domanda è precisa per te, Luca. Chi non vorresti Renan nella tua squadra? Dì almeno la tua squadra. La Sampdoria. Lo stavo dicendo. Renan della Sampdoria, Juan Antonio della Sampdoria. Chi sono? Appunto, per quello che non li voglio più vedere. Ma lascia stare. Ma no, di gente che gioca. No, è appunto Renan e Juan Antonio, via, a casa. Ma smettila. Se c'è una squadra di Serie C, Lega Pro, che vuole Renan e Juan Antonio, che se li vada a prendere a Genova, pago io il viaggio. Ecco. In seconda classe in treno. Tra l'altro, chi sono questi qui? Dai. Guarda che sono gente forte, Renan, ecco, Juan Antonio, vabbè, brasiliano, scusa. Argentino, ma scherzo. Vabbè, pronto? Eccomi, sono sempre qui. accerchiato dai tifosi interisti non troppo soddisfatti. Che impressione ha fatto l'Inter questa sera? Bella. Bella, nonostante il pareggio. Delusione. Una delusione. Potendo scegliere, che cazzo è che sta in questa sessione di mercato della vostra squadra? Guarin. Guarin, insomma, avete capito che Guarin non è amatissimo. Potendo scegliere, chi cazzo è questa sessione di mercato dall'Inter? No, non sono interista. Sono portoghese. Siete soddisfatti di questo momento? Molto soddisfatti. Anche Torino con un punto in più e un sorriso. Beh, noi siamo di Milano, per cui... Sì, noi torniamo a Milano sorridenti. Potendo scegliere, chi cacceresti dalla vostra squadra in questa sessione di mercato? Ma no, li salviamo tutti, dai, andrà bene così. E potete fare un colpo e portare qualcuno a casa? Ma andiamo bene così quest'anno, noi dobbiamo salvarci. Quindi torinisti soddisfatti della propria rosa. Ma senti con che tono lo dice Luca, ma dove sei, scusa? Ma cosa stai facendo? La dove che è sportiva? Torinisti soddisfatti della propria rosa. Ma che frasi stusi? No, ma soprattutto, cioè, ma come è possibile? Come hai visto l'Inter questa sera? Ma tutti stranieri o tipo del Torino? Ma dove sei? Stranieri ovunque, un'impressione sull'Inter di questa sera? Non comment, indicibile, non comment. Non potete cacciare qualcuno da durante questa sessione di mercato? Alvarez, Pereira, ce ne tanti. Chi ti porteresti invece a casa? Avrei preso Boriello io. No, vabbè, lascia stare adesso. Facciamo un tema per volta, Luca. Chi vogliamo cacciare? Manca soltanto 3 giorni alla fine di tutta quanta questa vicenda, e cioè stiamo parlando del calciomercato, quindi non sarebbe male in qualche modo capire chi cacciare dalla propria squadra. Chi vorreste cacciare intanto, ascoltatori? 800-24-00-24, 800-24-00-24. Dai, vai, qui direttamente. Veloce, che non è che c'è tanto tempo, non è che abbiamo 2 ore. No, intanto ci sono 3 giorni in questo passaggio per andare a chiudere poi questa campagna di vendita o di acquisti in questo elemento. E poi dopodiché, in realtà, quello che noi ci interessa è la vostra squadra. Voi avete un giocatore, ecco, quel giocatore non vorrei più vederlo in campo. Tipo nella Sampdoria Juan Antonio Renan? No, io voglio dire, per esempio, Matri. Ma te non lo vedi in campo, infatti. No, cioè... purtroppo ogni tanto c'è in campo. Non lo voglio più vedere in campo. Cioè, ad esempio. No? Lascia cioè, stare che se metti in giro il nome mezza serie se lo compra. Subito dopo Padoin. Non voglio più vederlo in campo, Padoin, capito? Sono cose che mi prendono così. 824-0024 direttamente da Eva. Intanto salutiamo Luca. Luca. Pronto? Eccomi, sono qui. Hai trovato un interista? Sì, forse sta anche mangiando qualcosa. Cosa stai mangiando tu? Non parla, niente, aveva la bocca piena, non voleva parlare. Sono persone educate. Potendo dall'Inter in questa sessione di mercato. Niente, uno comment, uno con la mano che dice tutto questa sera. Posso dirti, giornatina un po' così, seratina anche, non è che proprio, sei riuscito a fare un grande servizio, diciamocelo, Soddisfatti da questo 2-2 strappato qui a Milano? Assolutamente. Volendo, chi poteste cacciare durante questo sessione di mercato della squadra che non vi convince? Cairo, ma scherzo. Chi? Cairo, il presidente. È proprio l'evento più inutile, Birsa. Birsa? Birsa. Se voi conoscete il giocatore che è stato nominato da questo tifoso del Torino. Sì, certo, Birsa. L'abbiamo capito dal tuo silenzio. Senti, guarda, veramente sei rimasto un po' così. Dai, ti salutiamo, caro Luca. Mi sa che puoi tornare anche. No, vai a casa, va, che tanto fa freddo. Fa freddo fuori. Ormai oggi il freddo non ci spaventa. Va bene, ciao Luca, grazie, a risentirci. A settimana prossima. Ciao, ciao, ciao, ciao, no, ciao, ciao. Questa era Luca Cancellara in collegamento dall'esterno, dal freddo esterno dello stadio di San Siro. Sì. Ha beccato solo stranieri, interisti che non volevano parlare e torinisti. Cioè, siamo a posto. E interisti che mangiavano. Esatto. E questo, d'altra parte, se tu vai fuori da San Siro alle 22 e cos'è, 52, sì, non è che puoi trovare grandi cose. Scusa, possiamo sentire intanto un uomo felice? Sì. No. Chi? L'allenatore Ventura del Torino. Ormai rammarico per il risultato, una volta venuto quello è, non ci possiamo fare niente. Credo che abbiamo fatto una buona partita, cioè venire a San Siro, una neopromossa, a proporre calcio, credo, e abbiamo giocato anche con una buona personalità. direi che avendo creato un bel po' di occasioni. Modesto, sì, no, ma è sentito... a proporre calcio, sì. Non a insegnare calcio. No, ma soprattutto ha detto il rammarico per il risultato, sì, all'inizio. Sì. Cioè, è vero che erano in vantaggio 2-1, ma addirittura rammarico quando tu da Torino... Beh, però insomma, poi dopo non hanno più fatto nulla, no, dopo il pareggio. Sì, è vero. Neanche però... loro, però, e questo è il problema vero. No, sono andati vicino al gol, ma anche però l'Inter è andata vicino al gol. Però come noi abbiamo già annunciato più e più volte, in attesa ovviamente di sapere da parte vostra se c'è proprio anche qualcuno che sta tornando proprio da San Siro, oppure anche nella partita di basket, sì, non è esatto. Importanza. No, 824-0024 per sapere, non voglio quel giocatore. O anche 349-238-6666, gli sms, 349-238-6666, qual è il giocatore che vorreste vedere via dalla vostra squadra? Manca il 31 di gennaio, pochi giorni, il calciomercato, quindi non è solo acquisti, sono anche vendite, cessioni. Perché ricordiamo, dai vai, non è solo calcio, e visto che non è solo calcio, bene, noi iniziamo questa sera ad avere già, a lanciare, a cercare di capire, no, quello che sta accadendo in uno sport un po' bistrattato da questo punto di vista, però mi sa che forse sta arrivando persino una telefonata, no, non vorrei, scherzavo, uno sport che è stato bistrattato ma che però ha un suo perché, una sua tradizione. Tradizione. Ha una sua tradizione. No? E io capisco che siete sicuramente tesi di fronte a quello che stiamo facendo. Sai cosa facciamo noi? Mm. Una traduzione. Cioè? Traduzione radiofonica di questo sport. Ecco, ok. La stanchezza è un po' quello che ci attanaglia in questi momenti. Parliamo con Mario Venturelli e stiamo parlando di tamburello. Lo so che non ci avete capito niente, cari ascoltatori, siete un po' increduli. Ebbene sì, questa sera dai vai parliamo di tamburello. Ciao Mario. No, sono Mauro Venturelli. Mauro, allora passami tuo fratello. Volevo parlare con lui. Io. Ecco. Si chiama Franco, quindi. Si chiama Franco. Senti, vabbè. Mario, senti una cosa. Ciao Giovanni, è stato bello averti qui con noi, ci salutiamo. Da quanti anni giochi a tamburello, Mario? 35. Ok, 35, no, abbiamo capito che ti chiami Mario, non c'è bisogno di sottolinearlo così. Senti, se sei così permaloso, diccelo, da quanti anni giochi? Allora tarda, 35 anni. 35 anni. Ho iniziato a 12, quindi fate i vostri conti. Sì. Dove vivi tu? In provincia di Mantova. Perché un dodicenne in provincia di Mantova si mette a giocare a tamburello? Perché non lo facevano giocare a pallone, sì, diciamo. Eri scarso a calcio. Esatto, sono uno scarto del calcio, diciamo così, e quindi nella mia zona il tamburello è sempre stato praticato e quindi ho iniziato a giocare e da lì è iniziata tutta la mia carriera. Allora, Mauro, giusto, Mauro, ha avuto un momento di titubanza in tutto questo, però noi lo recupereremo. Senti, no, quello che ti volevo dire è che noi abbiamo 3 minuti, 2 minuti e qualche cosa, poi dobbiamo lasciarci, tanto torneremo sicuramente sul tamburello. Allora, dici, intanto io ho scoperto fuori onda che esiste un tamburello estivo all'aperto, open, ma esiste anche un tamburello indoor. Esiste anche un tamburello indoor giocato in palestra con misure ridotte rispetto all'open, con una pallina che è una pallina da tennis depressurizzata. Depressurizzata. Come gli aerei, scusa? No, è più morbida per intenderci. Quella che è usata in allenamento anche per il tennis, va a una velocità ridotta, però si gioca in tre giocatori per squadra ed è estremamente veloce. Scusa, il campo è grande come il campo di pallavolo di paracanestro? Sì, un po' più lungo, ok. Senza rete, senza niente. Ma c'è un campionato? C'è un campionato. Indoor? Purtroppo oggi la nostra squadra ha perso il campionato europeo, una nostra squadra italiana, di Spagna a cavallo. Sì. Chiariamo, non è colpa nostra, non è che per colpa di questo servizio... E contro chi abbiamo perso? Contro la squadra del Florensac, francese. Perché sono i francesi i nostri avversari storici? No, abbiamo sempre vinto noi, però quest'anno è stato un anno sfortunatissimo, ho perso anche il mondiale, il primo mondiale l'abbiamo perso in Francia anche, quindi proprio non so cosa sta succedendo. C'è un momento di tristezza, sì, ci stai buttando, come è calata la depressione adesso? No, comunque Voglio dire che il tamburello, anche quello open, è molto spettacolare, quindi ve lo consiglio a tutti sì. i radioascoltatori. Senti, sì. ora, questo diciamo è il primo approccio per conoscerci meglio, però noi esatto. torneremo ovviamente per riuscire a capire soprattutto le regole del tamburello, che io non ho mai capito, te lo dico proprio in grande amicizia, e soprattutto proprio non ho ben capito, io, per esempio, io adesso lo so, però Luca Gattuso, che è qui a fianco a me, non sa in quanti si gioca per esempio a tamburello. Allora, il campo è lungo 80 metri per 20, le squadre sono composte da 5 giocatori, sono due squadre. Grazie, grazie, ci basta questo, grazie Mauro Venturelli, ci sentiremo ancora presto e torneremo ancora a parlare di tamburello, sempre qui a Dai e Vai. Noi nel frattempo dobbiamo anche ringraziare Roberto Scaltritti, ovviamente, in questo caso. Dobbiamo ringraziare l'assistente al programma. Ma Scaltritti sai cosa ha fatto? Sì, è stato il mixer, no? Perché dietro il vetro, dietro il vetro. Lo ringraziamo così, a prescindere. Esatto, il mixer, a tutte le levette, tutti i comandamenti dalle telefonate. Però Giorgio De Luca invece è il nostro assistente del programma in redazione, ma anche allo stadio fuori da San Siro, Luca Cancellara. Ciao Luca Gattuso, ovviamente, che è stato ancora qui con noi. E ciao Sergio Ferentino. Così me lo dici così velocemente, così, adesso dobbiamo dire che cosa c'è dopo Dai Federico, e Vai. Federico Pedrocchi con Mebius. Anche quest'anno Telefisco vi chiarisce tutti i dubbi sulle novità fiscali. Il 30 gennaio Radio 24 dedica una puntata speciale di Salva Danaio a Telefisco, l'evento del Sole 24 Ore che approfondisce e spiega le novità delle nuove norme fiscali con l'aiuto dei tecnici dell'Agenzia delle Entrate per rispondere alle vostre domande. Telefisco e Radio 24, mercoledì 30 gennaio alle 12.15 con Deborah Rosciani. Tutte le info su www.radio24.it in collaborazione con 24 Ore Software.